La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali ogni weekend a raccontarvi tutto il cinema che c'è a Radio 24, La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema. Un saluto da un raffreddatissimo Franco D'Assisi, abbiate pazienza, ma oggi è così. Del resto, l'inverno sta finendo e quindi si porta gli ultimi strascichi del suo freddo, ma soprattutto ci porta ancora un po' di film, un po' di buon cinema. Buono, meno buono, questo lo vedremo durante la nostra puntata. 7 nuovi film comunque sono arrivati in sala questa settimana, noi ne abbiamo scelti 4 da raccontarvi. Avremo anche un grande ospite internazionale prosieguo della nostra trasmissione, Robert Guédiguian, protagonista di una bella retrospettiva al Bergamo Film Meeting. Insomma, si potrà parlare e sentir parlare anche di cinema europeo d'autore. Allora entriamo subito nel clima della trasmissione con i nostri titoli di testa. Estate 1980. Una dottoressa trasferita da Berlino Est a un ospedale di campagna. Progetti di fuga verso un mondo più libero messi a repentaglio dalla variabile dell'amore. Il cinema torna a raccontare le vite degli altri con La scelta di Barbara, Orso d'argento a Berlino. Bello, rampante e sciupa femmine. Ma la dolce vita di Andrea sta per essere sconvolta. Un giorno torna a casa e trova una figlia che non sapeva di avere, per giunta accompagnata dal nonno. E sono lì per restare. La strana coppia Raul Bova e Marco Giallini, protagonista di Buongiorno papà. Variazione sul tema della casa maledetta. Uno scrittore in crisi cerca l'ispirazione perduta trasferendosi con la famiglia nella casa, teatro anni prima, di un'efferata tragedia. Ma le notti sue e dei suoi cari non saranno più troppo tranquille. È la storia di Sinister, horror con Ethan Hawke e Vincent D'Onofrio. Un po' Pasolini e un po' Ken Loach. Alla Rosa Purpurea, incontro con Robert Guédiguian, il regista marsigliese protagonista di una personale al Bergamo Film Meeting, per parlare del cinema francese, di quello italiano e dei suoi eroi della working class. E allora, cominciamo subito con il primo dei film che abbiamo selezionato, insomma, per questa puntata della Rosa Purpura. Partiamo dall'Italia, partiamo da questo che abbiamo definito lo sciupa femmine, che a un certo punto si trova una figlia che non pensava di avere in casa e soprattutto se la deve gestire. La commedia di cui vi vogliamo parlare, Buongiorno papà, con Raul Bova e Marco Giallini, ce la racconta Chiara Pizzimenti. Ciao, sono Leila. Ci conosciamo? Sono tua figlia. Lui è un quasi quarantenne da discoteca, con auto sportive e ragazze a volontà. Quella che suona al campanello è invece la ragazza che cambia la sua vita, come avrete capito. La figlia che non sapeva di avere lo cerca e si porta dietro il nonno, rockstar cinquantenne degli improbabili Enzo e i Giaguari. Affolleranno la casa di Andrea, dove già vive l'amico che pare scemo, Paolo. Vengo qui, mi siedo e leggo. Buongiorno, Leila. Hi, Paul, give me five. Sì. Sì, no. Mi dispiace, ma faccio una doccetta. Stavo leggendo. Il menage è di difficile gestione, ma è evidentemente la scossa che serve ad Andrea per diventare grande, insieme all'incontro con l'insegnante di ginnastica della figlia, Nicole Grimaudo. Deltoide tirato, quadricipite allungato, baricentro alto, passo breve. Un ottocentista, direi. Camicia stiratissima, pantalone bianco, un accenno di lampada, capelli tinti. Un coglione, direi. Di crescita, questa del secondo film da regista di Edoardo Leo, già autore di 18 anni dopo, e qui anche attore nel ruolo dell'amico con il sogno di fare l'organizzatore di feste per bambini. Non solo la crescita del protagonista, Raul Bova, da finto ventenne a padre, uomo e amico consapevole, quella di tutta la sua generazione, quella dell'amico che esce dall'ombra, quella dei nonni che si ritrovano. So che quando mi si chiede che ti scorre nelle vene, dico che non sempre sembra sangue. Anche la crescita della figlia, che ha il nome di una canzone scritta da Eric Clapton e pensa ancora che tutto sia bianco o nero, ma forse non sapeva che anche in 2001 Odissea nello spazio c'è un product placement, anzi due. Il tanto superficiale papà infatti lavora proprio nell'industria del cinema, nel piazzare i prodotti nei film, e questo apre un'altra lettura della storia. Si fa metacinema raccontando la difficoltà del far nascere una storia e di come altre, capitate per caso, come questa figlia, diventino le migliori mai raccontate. Deus Ex Machina è il nonno. No, non chiamatelo così, chiamatelo Enzo. Marco Giallini, filosofo in pantaloni di pelle fra Neil Diamond e i New Trolls. Fatela una risata, dice. È gratis. Una bella commedia d'insieme, da un soggetto di Massimiliano Bruno, sceneggiatore e a sua volta già regista, che ha i volti giusti per andare in profondità. I commenti all'uscita della sala sono tutti positivi. Sì, molto. È stato simpatico, molto brava anche la ragazzina giovane. Si guarda volentieri, insomma, si fa ride, è molto simpatico. Sì. L'intesa tra i personaggi. Sì, anche divertente. È stato un bel mix sia di situazioni serie che di divertimento. Insomma, promosso allora Buongiorno Papà, promosso anche abbastanza dalla critica in generale, quindi una commedia italiana azzeccata, insomma non è la prima, non è l'unica di questa stagione italiana a cercare il pubblico attraverso comunque la gentilezza del tocco, un determinato tipo di profondità, senza spaventare lo spettatore, ma cercando comunque di trasmettere dei contenuti. Classifica, prima di sentire come vanno le cose sulle strade, il grande potente Oz sbaraglia tutti nel suo primo weekend di programmazione con 3 milioni di euro di incasso, tiene a distanza un'altra bella new entry, un altro bel esordio in classifica italiana, Il lato positivo, il film che è valso a Jennifer Lawrence l'Oscar come miglior attrice protagonista, a 1,2 milioni. Terzo posto, buon terzo posto per Gabriele Salvatores, che continua quasi raggiungendo i 3 milioni in 10 giorni di programmazione, e anche per Il principe abusivo, che con ormai quasi un mese di sfruttamento alle spalle porta a casa un altro 1 milione nel weekend e soprattutto raggiunge quasi quota 13 milioni e mezzo nel globale dalla sua uscita. È lei? Sì. La dottoressa Wolf, da oggi lavorerà con noi. Viene da Berlino. Hai ricevuto il denaro? Devi renderlo impermeabile. Sarà a via mare? Quando? Presto. Molto presto. Ha fatto una gita? Venga, prego. Allora, c'è il sapore della spy story, insomma, il clima è quello inconfondibile, appunto, del sospetto, della sensazione di essere spiati, tipico dei tempi della Stasi, tipico di quella Germania Est dell'inizio degli anni Ottanta, anzi siamo proprio nell'estate del 1980, una dottoressa chiede un visto di uscita dalla Germania Est e per tutta risposta viene trasferita da Berlino a un piccolo ospedale di una piccola cittadina di campagna. Lì nasce tutto un tipo di relazione con la comunità locale, con i colleghi, che ci lascia pensare che dietro ci sia qualcosa di non definito, qualcosa di oscuro, e forse il suo ruolo comincia a giocarlo anche il sentimento, comincia a giocarlo anche l'amore. Un film, La scelta di Barbara, di cui vi vogliamo parlare, per il quale chiamiamo in causa il nostro Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, dicevamo, La scelta di Barbara, Orso d'Argento alla 62esima edizione del Festival di Berlino, nomination agli European Film Award, agli Oscar europei, insomma un film che ha raccolto parecchio in termini di premi, con Nina Hoss protagonista, una delle più grandi attrici tedesche contemporanee, e che ci torna a raccontare come quel paese, quel periodo storico, quella polizia segreta soprattutto spiava le vite degli altri, potremmo dire. Esatto, bravo. Bisognerebbe dire che da Goodbye Lenin in poi la Germania è stata ossessionata dalle vite degli altri, fino ad arrivare a quel capolavoro che fu Le vite degli altri. E adesso forse si sta un po' esagerando su questo genere dell'andarsi a cercare, insomma, quello che accadeva dalla parte sbagliata del muro. E Christian Petzold fa un film interessante come soggetto e se vogliamo anche straordinario nella sua protagonista Nina Hoss. Trovo che sia non solo una delle migliori attrici tedesche, se non la migliore, ma di sicuro una delle migliori attrici europee. Mi sembra generoso sia l'Orso d'Argento che la nomination agli EFA. Questo perché? Perché a dispetto del soggetto di una grande attrice, sia la sceneggiatura sia proprio il racconto visivo rimane abbastanza piatto. Volendo fare una similitudine architettonica, sembra di stare davanti a uno di quei palazzi della Germania Est, davvero brutti anche se molto efficaci. E quindi alla fine ci si porta a casa un film che, come al solito, ti racconta che nel cuore dell'Europa c'era un angolo di terrore, un angolo di quotidiano terrore, di normalità nel terrore, e che c'era un paese in cui la libertà era vietata e in cui si veniva spiati. Interessante, come dicevamo, il soggetto, perché tutto quello che vi può appassionare del film sta proprio in questa donna che in qualche modo vuole fuggire e si riscopre legata comunque al suo paese. In questo mi ricorda Fatherland di Kerlouch, dove un intellettuale passava il muro e viveva quasi in una sorta di nostalgia, nonostante il suo passaggio oltre il muro fosse in qualche modo anche il viatico del suo successo. E per il resto il film, secondo me, è un grande incompiuto, anche se a mio parere va visto, perché ha dei momenti interessanti che non lo rendono un gran film, ma lo rendono sicuramente un documento interessante di cui usufruire. Però ecco, forse è stato un po' sopravvalutato. Non dovrebbe stare così sulle sue. Ma che cosa ci fa lei in provincia? Controlla che nessuno stia sulle sue? Torno fra un momento. Andrà tutto bene. La ragazza è incinta. Verranno a prendermi presto. Le toglieranno il bambino. Tu puoi fare qualcosa per me, dottoressa? E allora, questo era La scelta di Barbara, il primo film di cui vi abbiamo voluto parlare e raccontare. L'altro regista Petzold ha detto di essersi ispirato ad Howard Hawks, diciamo che ha ancora qualcosina da imparare probabilmente dal grande maestro. È il momento di giocare insieme, di cominciare a scoprire traccia per traccia, frammento per frammento, il film misterioso di oggi, che resterà misterioso fino alla prossima settimana, fino a quando non sveleremo i vincitori, per provare a vincere una copia del film in un video proprio di questo film che noi adesso vi facciamo sentire. Ma che muso sporco hai? Ma sta bambina, cava puzza sta bambina. Ma non c'è acqua. Lo so, mo l'acqua noi non ce la danno e oggi ce ne andiamo al mare. Ecco, allora, di che film si tratta? Titolo del film, vostro nome e cognome, vostro indirizzo per provare a vincere una copia in DVD o Blu-ray di questo film. Più tardi avremo, come sempre, un altro paio di possibilità, un altro paio di tracce per provare a scoprire, a svelare il film misterioso. Un attento uomo d'affari, dedito alla famiglia, che ho la fortuna di poter chiamare mio mentore e mio padre. Il mondo gira tutto intorno a 5 lettere. S-O-L-D-I. Non devi vendere, la società può crescere ancora. Di quanto denaro abbiamo bisogno? Sarai l'uomo più ricco al cimitero. Sì. Un certo detective Breyer vuole vederla. E allora, abbiamo sentito in questa prima fase l'ascesa e anche, come dire, la doccia fredda che riguardano il racconto della Frode, il film di Nicolas Jarecki con cui vogliamo proseguire le nostre proposte cinematografiche di questo weekend. La Frode con Richard Gere, Susan Sarandon, coppia, diciamo, centrale di questo film, attori, insomma, di una leva e di una generazione che ha già dato quello che deve dare, che ci offre ormai personaggi assai consolidati. Tim Roth, Letizia Castà e un cast comunque importante, titolo originale Arbitrage, insomma, truffe, padri, figli, e sono tutti temi molto molto attuali, forse soprattutto quello delle truffe. Quando tutto questo si rivela, diciamo che il gioco comincia a scoppiare. Questo è un pochino il tema del racconto di questo tycoon interpretato da Richard Gere, che ha sostanzialmente sempre raccontato balle. A un certo punto tutto questo viene fuori con tanto di indagini giudiziarie sul suo conto. Boris, Richard Gere è un attore che ci ha abituato a ottime prove, a volte a prove un pochino così insensate per uno che ha il suo curriculum. Da che parte stiamo stavolta? Più di qua o più di là? Beh, no, sicuramente dalla parte dell'ottima prova. Io devo dire che quando vedo film come La Frode provo una grande invidia per gli Stati Uniti, perché Nicolas Jarecki è un esordiente che ha due fratelli nel cinema, Andrea e Edward, e può mettere insieme una produzione indipendente che in 31 giorni fa recitare il cast che tu hai raccontato, in più c'è anche Letizia Casta che si ritaglia un ruolo da amante di Richard Gere, quindi straordinario cast, ottima sceneggiatura, secondo me sceneggiatura che alterna appunto le menzogne di Richard Gere, un tycoon alla Madoff per intenderci, ma molto più normale psicologicamente, e noi lo peschiamo a cavallo del suo 60° compleanno. Sembra un uomo di successo all'aereo privato, ma capiamo subito nel momento in cui sta tornando proprio per festeggiare il suo 60° compleanno che c'è qualcosa che non va. Sta cercando ossessivamente di firmare un accordo che potrebbe salvarlo. Sembra essere solo un problema di debiti, invece no, c'è un castello di carte dietro che lui deve salvare, vendendo questo castello di carte a chi non può rivelare che è un castello di carte. Accanto un dramma privato, questa relazione clandestina che finisce in maniera tragica, involontaria ma tragica, e si aggiunge un'altra enorme menzogna e arriva Tim Roth, straordinario soprattutto a mio parere nei ruoli da comprimario, che è un poliziotto che in qualche modo ha l'esigenza non solo di trovare un colpevole ma anche di sanare l'ingiustizia che vuole i ricchi, che vuole i potenti, sempre protetti da una sorta di cerchio magico che appunto è quello della società, della buona società. Interessante perché non è un film che pretende di essere un grande film d'autore, ma si instilla in un genere che è iniziato con Margin Call, che è quello che vuole spiegare il capitalismo moderno e i disvalori che ha portato, cioè i valori su cui non si fonda sostanzialmente, e lo fa bene, lo fa in maniera molto efficace, lo fa quasi come se fosse un bilancio economico molto ben scritto, lo fa però con un linguaggio cinematografico interessante, secco, cattivo, e con un Richard Gere che se la cava benissimo in un ruolo in fondo che in lui non conoscevamo tanto, perché è un cattivo travestito da buono, o forse il contrario. Quindi non siamo davanti a un capolavoro, ma di sicuro è un film molto molto intelligente, molto affascinante, che va visto anche per ricordarci in che tempi viviamo. Manca più della metà dei fondi. Il buco è di 400 milioni di dollari. È ridicolo. Stai rischiando 1000 anni di carcere. Ti voglio. Più passa il tempo, più bugie si è costretti a dire. Volevi che i clienti facessero bancarotta? Hai mentito! Stavamo per fallire! Che sta succedendo? È mio padre, devo fidarmi di lui. Detective Breyer, è per suo marito. Fissi un appuntamento, la polizia vuole parlarne e io non voglio mentire per te. Il responsabile non se la caverà soltanto perché è apparso in TV. E allora questo era La Frode, un'altra delle novità selezionate in sala per questo fine settimana. Abbiamo dato un'occhiata prima alla classifica italiana, diamo un'occhiata a quella invece americana in questo ultimo weekend. Il grande potente Oz è primo anche di là dell'oceano, quindi non cambia praticamente nulla, tra l'altro con 80 milioni di dollari incassati nel primo weekend in questa uscita internazionale. Al secondo posto rimane per il momento Il cacciatore di giganti di Bryan Singer, un film che vedremo presto anche nei cinema italiani. Al terzo posto Io sono tu di Seth Gordon, e poi Dead Man Down, Il sapore della vendetta, al quarto posto, uno dei film che escono in sala questa settimana e che non vi abbiamo, diciamo, selezionato perché visto e subito scartato per essere piuttosto brutto, e quindi abbiamo deciso di dare spazio a qualcosa che valesse più la pena. Dobbiamo parlare di Sinister, horror, come dicevo, piuttosto riuscito. Volevo solo fare una piccola appendice su Dead Man Down, che abbiamo stroncato così in due parole, però per dire che sono Colin Farrell e Noomi Rapace, che io torno a pensare essere una delle attrici più sopravvalutate della storia recente del cinema, e il film ha una sceneggiatura che in confronto a un videogame è pacato, diciamo, uno spara-spara è piuttosto pacato. Detto questo, insomma, ecco, non dobbiamo occuparci di questo in questo momento, ma di Sinister, che è invece un horror che torna sul tema eterno della casa maledetta, se volete, perché qui abbiamo uno scrittore che è stato di successo ma che adesso è in crisi di ispirazione, e che per ispirarsi cosa pensa di fare? Ma dico, ma non l'hai visto un film ogni tanto? Cosa pensa di fare? Di andare ad abitare con la sua famiglia, ovviamente, in una casa dove anni prima è successo un'efferata tragedia, dove sono rimasti trovati impiccati tutti i componenti della famiglia. Lui va a vivere lì, così avrà l'ispirazione per scrivere il suo nuovo libro. Insomma, te la sei proprio cercata. Nuovi dettagli sul massacro di una famiglia della zona scoperto all'inizio della settimana. Non volevo trasferirmi qui. L'altra casa costava troppo e poi il mio nuovo libro è ambientato qui. Stavolta è una bella storia. Scriverò il libro più bello che la gente abbia mai letto. Sento che sarà un grande successo. Cos'è? Una presa in giro, famiglia in gita, grigliata 1979. È la famiglia che prima viveva qui. Boris, il protagonista è scemo, oggettivamente, però il film funziona bene. Io non sono d'accordissimo, o meglio, secondo me il film si divide totalmente in due. La prima ci dice una grande verità, ma che è la verità per eccellenza, credo, al cinema. Vuoi vivere bene, pensa a quello che farebbe il protagonista di un horror e fai tutto il contrario e prenderai sempre la decisione giusta. Per quanto riguarda il film secondo me ha un difetto che molti horror hanno, cioè avere una idea straordinaria di fondo e avere bene in testa gli ultimi 20 minuti. E infatti qui gli ultimi 20 minuti secondo me sono straordinari, sia come realizzazione sia come ideazione. Prima la costruzione della tensione secondo me non è ottima, probabilmente anche per un problema proprio di carisma del protagonista, cioè questo scrittore non solo prende sempre la decisione sbagliata, ma ti sembra neanche particolarmente intelligente. È difficile immaginarselo come uno scrittore di successo o un ex scrittore di successo. E a mio parere va bene che una sceneggiatura in un horror deve essere molto esile, perché insomma fa parte del genere, ma qui si esagera, soprattutto perché poi appunto a un certo punto, quando gli ingranaggi si mettono tutti nella stessa posizione, diventa invece abbastanza corposa. Mi sembra che avendo del materiale così buono verso la fine ed avendo comunque un filone che è quello di questi super 8 che lui scopre in questa sorta di suo studio in cui non si può arrivare, si poteva fare molto meglio nel resto del film, e invece ci si abbandona, insomma ci si appoggia, ci si adagia su quattro trucchetti sempre uguali che in qualche modo rendono il film secondo me ampiamente sotto la sufficienza, fino a che non arriverete al momento del terrore puro, perché ormai insomma prima i film con dei minorenni molto pericolosi erano pochi, adesso sembra essere questa la nuova frontiera dell'horror. L'unico legame tra i vari casi è questo simbolo. Il simbolo è associato a una divinità pagana di nome Bagul. È solito consumare le anime dei bambini. I primi cristiani credevano che Bagul vivesse nelle immagini che lo rappresentavano, che costituivano i varchi di accesso al suo regno. I bambini esposti a queste immagini erano più vulnerabili ai rapimenti ad opera di Bagul. Tesoro, che fai? Dipingo. Io voglio dipingerla. Di chi stai parlando? Di Stefani, viveva qui. E allora, questi erano appunto gli ultimi highlight di Sinister, che al di là di quello che ha detto il nostro cattivissimo Boris Sollazzo, ha avuto comunque complessivamente dalla critica un via libera, comunque un film che può valere la pena di vedere, soprattutto per gli amanti del genere, per rientrare un po' in questo clima. Boris, io ti saluto, ti do appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni delle novità di questo weekend. Abbiamo finito, anche se fra poco sarà con Roberto Ghedighian, che è sempre una bella novità, almeno da sentire parlare, affrontare con lui, con la sua passione, tutti i temi del cinema. A fra 7 giorni. Alla prossima settimana. È il momento di giocare. Giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Qua dentro, se non ci penso io, cu cazzo ci pensa? Hai un figlio di 20 anni che non fa una minchia da mattina a sera. Ma lo dici tu perché dovrei essere contento? Ma perché dovrei essere contento? Ma Nicola, ma che dici? Io mi spacco la schiena dalla mattina alla sera! E allora, di che film si tratta? Come dire, il dialetto dovrebbe essere già chiaro, intuibile, sin dalla prima clip, e in questa ancora di più. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per provare a giocare e vincere una copia di questo film per il sabato, una per la domenica, con il vostro nome, cognome e indirizzo. Mi raccomando, scrivete subito, più tardi avremo l'ultima possibilità. E allora è arrivato il momento del nostro ospite, ne abbiamo parlato prima, Robert Guédiguian, regista francese, marsigliese per la precisione, e questo è un elemento non da poco, perché nel suo cinema Marsiglia e soprattutto il suo quartiere, il quartiere delle Stack, è una presenza importante, è il punto di vista dal quale Robert Guédiguian ha guardato e ha fatto il suo cinema in tutta la sua carriera, cominciata nel 1980 con Dernier Été, e per il momento che vede come perla più recente Le nevi del Kilimangiaro del 2011, di cui ascoltiamo questa clip. Papà non è in pensione, è in cassa integrazione. Sì, ma un lavoro dove lo trova più ormai? Chi te l'ha detto? A che serve tapparsi gli occhi? Ma questa adesso che cos'è? In fondo al cofanetto. Un viaggio di una settimana per due. Nel paese dei Masai. Ai piedi del Kilimangiaro. Evviva! Non muovete! Silenzio! Siedi tu! Mary Claire! Quelli come voi hanno le carte di credito. Il PIN! Avanti il PIN! Dove sono i soldi? Quali soldi? I soldi del viaggio! Dai che sappiamo tutto! Dove sono? Ho voglia d'ammazzarlo quel bastardo. Voglio che si prenda il massimo. Quello con due bambini? Sì, col giacchetto celeste. Ok, sospetto individuato. In direzione dell'autobus 37 con due bambini. Era un operaio, come noi. Come noi? Perché? Andavi in giro a fare il delinquente, tu? Io me ne frego che sia punito o no. Quello che voglio io è capire. Starò meglio quando avrò capito quello che è successo. E allora, abbiamo sentito il trailer delle Nevi del Kilimangiaro, dicevamo l'ultimo film del 2011 di Robert Guédiguian, distribuito in Italia, come sono stati distribuiti in passato alcuni altri suoi film. Marius et Jeannette, forse il suo film più celebre, quello che sicuramente lo ha rivelato al pubblico dei festival internazionale, e poi all'Attaque, passato al Festival di Venezia, La Ville Tranquille, Marie-Jo, I suoi due amori, e forse soprattutto, direi, Le passeggiate al campo di Marte, uno dei rari casi in cui Robert Guédiguian è uscito dal raccontare le storie appunto della sua Marsiglia e di questa umanità di tutti i giorni, per raccontare la storia con la S maiuscola, quella degli ultimi mesi di vita del presidente François Mitterrand, che racconta i suoi segreti. Forse lo ricorderete, chi di voi l'ha visto, film bellissimo, che racconta i suoi segreti, diceva un giovane scrittore che ne sta traendo una biografia. Bergamo Film Meeting ha dedicato, Bergamo Film Meeting che si chiude appunto domenica, ha dedicato una retrospettiva completa a Robert Guédiguian, che è stato ospite della manifestazione insieme a sua moglie Ariana Scarid, che è anche l'attrice praticamente di tutti i suoi film, perché una delle caratteristiche di Guédiguian, al di là dell'unità di luogo appunto di Marsiglia, è anche quella dell'unità di cast. È una squadra vera e propria, quella che gioca, e guardate caso recitare in francese si dice jouer, esattamente come giocare, quella che gioca insieme al regista marsigliese, Jean-Pierre Darroussin per esempio, appunto Ariana Scarid, molto spesso vediamo le stesse facce. Ed è anche questo un esperimento interessante. Lo abbiamo incontrato, Robert Guédiguian, nel suo albergo a Bergamo, e ne è uscita una chiacchierata molto interessante, molto, molto bella e profonda e sincera su quello che è lo stato dell'arte, del suo cinema e del cinema europeo. Oggi, sentendo anche la conferenza, così ragionando sul suo cinema, sono venuti fuori due nomi internazionali che potrebbero essere dei sorta di grandi padri putativi, Pasolini da una parte, e invece un altro è un nome di un contemporaneo a Robert, che è Ken Loach. Forse è, il tuo cinema può essere considerato un punto di mezzo fra Pasolini e Ken Loach? Ah, c'est possibile, in tout cas c'est deux. J'ai pas connu Pasolini, mais j'ai connu Ken Loach. Ma è possibile, non ho conosciuto Pasolini, ma ho conosciuto Ken Loach, e effettivamente penso che si possa dire che sono a metà strada tra i due, nel senso che sono più soggettivo di Ken Loach e meno soggettivo di Pasolini. Ecco, il suo cinema ha sempre raccontato la classe operaia, la classe lavoratrice. Oggi questa classe forse non c'è più, e se c'è è una minoranza, non è più forse nella società questa grande rappresentanza. E allora volevo chiedere a Robert, il tuo sguardo dove va a cercare i tuoi protagonisti, in quale direzione? Vous savez, c'est toujours très simple d'aller de trouver, hélas d'ailleurs, c'est trop simple de trouver des gens humiliés et offensés aujourd'hui. Il y en a. Alors, purtroppo, è sempre semplice trovare degli oppressi. Quindi, oggi questi sono gli impiegati che sono oppressi sul lavoro, tormentati, che soffrono, che si suicidano. Ci sono molti suicidi sul lavoro, e è una cosa terribile. E diciamo che questa può essere la forma contemporanea di quello che erano magari gli incidenti sul lavoro, nelle miniere, nei cantieri navali di un tempo, insomma. La même forme que la classe ouvrière du 19e siècle, mais elle existe toujours. Possiamo dire che la classe operaia si sia trasformata in una condizione dell'anima? Intendo dire il precariato umano, lavorativo e sociale, forse oggi la rappresenta meglio di tutto. Oui, ça c'est le pire, je pense, qui puisse arriver, c'est effectivement ce qu'on appelle la précarité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a sì, quello che direi che quello che è il, forse il peggio è quello che oggi si chiama il precariato, cioè queste persone in condizioni di grande precarietà, gente che lavora part-time, a metà tempo, a volte un terzo del tempo. Non sono neanche più disoccupati, sono lavoratori poveri. E questa è una forma odierna, contemporanea, di quelli che un tempo si chiamava il sottoproletariato, cioè sono persone che non hanno neanche le condizioni di prendere coscienza appunto della loro condizione, non lavorano con i loro amici, si trovano in una situazione di grande isolamento, hanno orari diversi, eccetera, quindi è una condizione ancora peggiore. Come si salva il cinema europeo d'autore? Cioè, anche solo rispetto a 20 anni fa, la situazione è difficilissima, non ci sono più i cinema, le sale che proiettano questi film, eppure probabilmente secondo me un pubblico ci sarebbe, il pubblico è molto attratto, è molto interessato, ma è saltato qualcosa nella distribuzione industriale del cinema. E allora come si recupera questo pubblico? No, je crois que c'est encore possible. Même dans la crise que nous vivons aujourd'hui, anche nella crisi di oggi, infatti, penso anche in questa assenza di luoghi e di spazi di democrazia, penso che il cinema possa essere proprio un agorà, un forum, e possa interpretare appunto questa necessità di essere insieme, di discutere, proprio di stare insieme, di discutere, di trovare degli spazi di condivisione. Il cinema può occupare questo posto là in questo momento. Siamo alla quarta parte del nostro programma e come sempre la dedichiamo al cinema da vedere in casa, alle visioni domestiche, a quello che le televisioni passano in chiaro e gratis sulla digitale terrestre per rifarsi una cultura cinematografica o farsela magari per la prima volta, se magari non si sono visti tanti film molto belli che vengono visti e recuperati dalle reti TV. E così abbiamo come sempre selezionato un paio di titoli dei quali andiamo a parlare insieme agli amici della redazione di Film TV ed è in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati ai radioascoltatori. Allora partiamo da un bell'occhio piuttosto recente, anno 2009, per raccontare Vincere, un imperativo che è anche un motto, con Giornata Mezzogiorno, Filippo Timi, un cast importante, ovviamente una storia ambientata all'epoca del fascismo. Sì, Vincere, martedì su Rai Movie in prima serata alle 21.05. È la storia vera di Ida Dalser, che fu amante di Benito Mussolini, madre di un suo figlio, personaggio poi internato e dimenticato dalla storia. Bellocchio gira un film in cui l'amore impossibile è quello tra una donna in carne e ossa e un uomo che lentamente si trasforma, perché da corpo pulsante Mussolini, acquistando potere, diventa un'immagine mitica e poi infine addirittura una statua, e mentre lui vive nell'immaginario, lei è lì nelle secche della realtà e viene appunto cancellata dalla storia. Vincere è veramente una delle vette del cinema italiano recente, un melodramma che è anche un lucido saggio sul corpo politico e sulla costruzione dell'immagine di un leader a scapito della realtà. È un film ovviamente sul fascismo, inteso sia come periodo storico ma anche e forse soprattutto come attitudine oscura di una nazione. E allora, mentre proprio in un video, tra l'altro in questi giorni, esce Bella Addormentata di Marco Bellocchio, la televisione ci offre la possibilità di vedere il film immediatamente precedente, appunto Vincere, martedì 19 marzo alle 21.05 su Rai Movie. Così come su Rai Movie, due giorni dopo, giovedì 21 marzo, ma qui siamo a notte fonda, vale però la pena puntare un videoregistratore se non siete nottambuli per vedersi quella vera, autentica goduria per gli occhi che è Arca Russa di Sokurov. Assolutamente, giovedì Arca Russa su Rai Movie alle 4.15 nella notte, quindi tra giovedì e venerdì, un'esperienza assolutamente unica, un fantastico viaggio attraverso la storia della Russia dall'epoca degli zar ad oggi, tutto compresso, ed è qui la peculiarità, in 96 minuti in un'unica ripresa senza stacchi di montaggio, tutto in un unico luogo che è l'Ermitage di San Pietroburgo. In digitale, in un digitale pieno di fantasmi, il maestro Sokurov gira un'opera radicale che è esteticamente sconcertante, proprio un'esperienza, che è una sfida registica, una sorta di visita guidata e un viaggio nella storia. Girato ovviamente in più tentativi, ma in un unico giorno, perché l'Ermitage concesse a Sokurov un unico giorno di riprese, in 33 set diversi e con centinaia di comparse, e diciamo che alla quarta ripresa, dopo tre riprese fallate, fu la volta buona, insomma, che la ripresa riuscì. E allora, questo è l'appuntamento Arca Russa, davvero non perdetevelo perché è un film unico anche per le condizioni da vera e propria sfida che ha raccontato Giulio San Giorgio, giovedì 21 marzo 4.15 del mattino di giovedì 21 marzo su Rai Movie. Grazie Giulio. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati all'ultima traccia, l'ultimo frammento del film misterioso di oggi. In considerazione della giovane età della vittima e delle infauste circostanze della morte, eccetera, eccetera, la cifra accordata è di 220 milioni. Allora, uno dei film più belli della stagione in corso per quanto riguarda il cinema italiano, La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo, mi raccomando, di questo film, il vostro nome, cognome e indirizzo. Andiamo a sentire una delle tracce di 7 giorni fa. Jack, sei attanto così. Davvero? Attanto così da cosa? Sei attanto così dal vedertela con me. Non lo abbandoni in aeroporto con 6 persone senza un cazzo in mano. Ora dice al direttore di chiamare la Casa Bianca. Fai il tuo cazzo di lavoro! E allora, si trattava di Argo, il film che quest'anno ha vinto l'Oscar come miglior film. Ben Affleck, quindi, la crisi tra Stati Uniti e Iran di fine anni 70, una missione impossibile per salvare un manipolo di sequestrati. Hanno indovinato, fra gli altri, è stato un game molto partecipato, questo devo dire, hanno indovinato Richard Castellano di Brescia e Veronica Besa di Campo San Piero, provincia di Padova. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di Argo, che ci facciamo raccontare nel suo packaging, nei suoi contenuti speciali, dal nostro specialista Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, da Warner Home Video, l'edizione sia DVD che Blu-ray per Argo, in particolare il Blu-ray offre un'immagine con qualità da riferimento pari a quella cinematografica, contiene audio Dolby Digital multicanale per l'italiano di qualità molto buona e da sala cinema sicuramente la versione inglese DTS multicanale ad alta risoluzione. Sono diversi gli extra, su tutti sicuramente la visione del film immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione, interviste, dati storico-biografici, c'è un commento al film del regista assieme allo sceneggiatore, un'ora dedicata ai fatti realmente accaduti ed è inclusa la copia digitale. E allora, questo era Argo, il game della scorsa settimana. Andiamo alle recensioni, alle novità in un video di questo weekend. Oggi abbiamo selezionato due film targati 2012, quindi proprio piuttosto recenti, che arrivano appunto in un video. Cominciamo con una storia di fantascienza, con una navicella spaziale americana destinata alla Luna, ma qualcosa non funziona come deve in Iron Sky. Abbiamo ricevuto conferma che la nave spaziale era atterrata con successo sulla Luna, per poi interrompere le comunicazioni di colpo, come se si fosse volatilizzata. Oh, ci state nascondendo qualcosa? Certo, nascondiamo qualcosa nel lato oscuro della Luna. Quello che mi risulta ancora difficile da credere è che il solo scopo della missione fosse quello di promuovere la rielezione del vostro presidente. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale i nazisti si sono rifugiati sul lato oscuro della Luna. Riedificato un nuovo impero militare, nel 2018 il nuovo Führer e i suoi accoliti sarebbero anche pronti a invadere il pianeta Terra se solo fosse pronta la più potente arma di distruzione di massa mai costruita, ovvero una gigantesca astronave cui servirebbe una potenza di calcolo maggiore, proprio come quella offerta dal cellulare di un astronauta americano catturato durante una missione lunare. Opera di debutto per il regista finlandese Timo Vuorensola, che nel 2005 si era fatto notare con un corto parodistico su Star Trek caricato su YouTube. Aerosky è una commedia dissacrante, ricca di ironia, con splendidi effetti speciali, per fortuna almeno per una volta, che non provengono da una grande casa di produzione. Edizione un video Moviemax, noi consigliamo l'ottimo Blu-ray in alta definizione con qualità immagine eccellente, c'è una doppia traccia DTS multicanale ad alta risoluzione. Come extra segnalo due interessanti capitoli di approfondimento sulla lavorazione. E raccontiamo invece il ritorno di Oliver Stone nel suo film appunto più recente, Le Belve Savages, con una storia che potrebbe essere così sintetizzata: quando due, che non sono dilettanti ma sono un po' bohemien, tentano di fare i grandi spacciatori, le cose finiscono male. Ma se pensate che io sono la unica che sta perdendo soldi, c'è una sorpresa. Prima di tutto, quei 3 milioni di dollari li pagherete tutti voi. Sì, anche tu. Secondo, ora devi trovarmi sta cingata rata di merda che ha detto dov'è il deposito ad Azul. Altrimenti dovrò perseguitare le vostre mogli, i vostri figli, il su puta madre se è necessario. In California l'ex Marine Chon e il botanico e buddista Ben stringono un'amicizia sodale grazie ai semi di marijuana contrabbattati da Chon di ritorno dall'Afghanistan. La coppia mette in piedi una florida azienda di produzione di droga, attirando l'attenzione di un feroce cartello di trafficanti messicani che rapirà Ofelia, amica e amante dei due, per ricattarli a dovere. In un'escalation di sangue e violenza, Ben e Chon si ritroveranno in corsa contro il tempo per riuscire a salvare la donna. Dopo un lungo periodo Oliver Stone è tornato al noir con un racconto dalle tinte fortissime e il regista non ha perso la capacità di coinvolgere, con un'eccellente resa messa in ombra solo in parte da un saltuario manierismo e verbosità nei dialoghi. Da Universal l'edizione è un video, anche qui il consiglio per il Blu-ray, tra l'altro edizione che include unicamente la versione estesa inedita di 141 minuti contro quella cinematografica di 131, strepitosa qualità d'immagine, doppio traccia DTS in italiano veramente esclusivo, mentre DTS ad alta risoluzione solo per l'inglese. Come extra segnalo 9 sequenze eliminate dal montaggio finale, ma c'è anche un documentario di 34 minuti sulla lavorazione e anche qui è inclusa la copia digitale. E questo allora è Le Belve, film come sempre un po' ipertrofico da parte di Oliver Stone, ma insomma con un castone, avete sentito, da Salma Hayek, Benicio del Toro, John Travolta e i protagonisti Taylor Kitsch e Aaron Johnson e la bellissima Blake Lively che fa la bionda, che doveva essere Jennifer Lawrence, poi però doveva fare Hunger Games e invece questo film non l'ha fatto. Grazie Claudio, appuntamento fra 7 giorni. Un saluto, a presto. E allora siamo arrivati in fondo alla nostra corsa, c'è solo il tempo per ricordarvi la nostra pagina Facebook, la nostra community che si estende di settimana in settimana, abbiamo superato quota 1500, questo ci fa piacere, e quindi dite, come si diceva una volta, votate e fate votare, ecco, voi dite e fate dire ai vostri amici di cliccare mi piace sulla pagina La Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook per essere informati praticamente tutti i giorni sulle novità, per poter dire la vostra, per poter risentire la trasmissione in podcast, insomma per far parte del nostro gruppone che chiacchiera e discerne di cinema di giorno in giorno. A questo punto non mi resta che salutare e ringraziare in redazione Giorgio De Luca e regia Valeria Bernardi, darvi appuntamento la prossima settimana qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.